Riprendiamo con Rudy Zerbi, invece presidente di Sony Italia. Rudy, allora parliamo invece di musica, perché poi le vendite sono un'altra cosa rispetto all'esito, al verdetto finale. Sì, sai, qui bisogna cercare di sfatare un mito che può diventare banalità. Allora, non tutto quello che va in televisione poi vende, diventa un successo. Non sarebbe carino, ma basta che guardiamo indietro alle scorse edizioni dei talent show, tra virgolette, in discussione, sono pieni di nomi già dimenticati e magari di trasmissioni finite solo pochi mesi fa, per cui non significa che tutto quello che va lì poi funzioni. Però è anche vero che oggi come oggi ci sono dei bei momenti dove un ragazzo che esce da un talent show e che ha delle qualità vere, con un lavoro fatto bene di qualità, poi ha successo. Ne abbiamo visti in questi anni due o tre, almeno non tanti, ma due o tre. Però la cosa interessante è quello che secondo me è il fenomeno da analizzare su questo Sanremo, è che tutti i nomi, o la maggior parte perlomeno dei nomi, che anche l'opinione, la critica sta cominciando a segnalare come interessanti, come di qualità, io sto parlando di Mengoni, sto parlando di Noemi, sto parlando di Valerio Scano, ma anche di altre cose in altri ambiti, poi sono quelli che anche la critica apprezza e, caso strano, poi anche quelli che sono ai primissimi posti delle classifiche, perché se guardiamo i primissimi dati di vendita da venerdì, i dischi di Sanremo sono usciti venerdì, per cui due giorni fa, ad oggi, se le guardiamo sui negozi digitali dove le classifiche sono aggiornate in tempo reale, se vediamo i primi exit poll dai negozi, caso strano, sono proprio quelli che funzionano, per cui non è solamente una questione di televoto, perché non dimentichiamoci, e io ahimè ne sono anche stato protagonista e non mi vergogno, io mi ricordo decine di vincitori di Sanremo che il giorno dopo venivano puntualmente dimenticati o non comparivano neanche nelle classifiche di vendita, per cui forse bisogna rendersi conto che sta cambiando proprio stanno cambiando i tempi, e io direi anche grazie a Dio in certi casi, ecco. Beh, devo dire che redivivo anche il festival, perché qualche anno fa lo si dava per morto, invece a quanto pare, visti gli ascolti, non è affatto così, quindi come sempre, certo, la formula è la cosa importante. E poi l'altra cosa, scusami, e poi sì, mi fermo, però questi ragazzi che escono dai talent show sono costretti per mesi a cantare, a provare, a esibirsi giorno dopo giorno, 24 ore su 24, per cui questa cosa li rende non solo molto preparati, è difficile vedere un ragazzo che esce da un talent show, parlo di quelli dei migliori chiaramente, stonare o emozionarsi e non essere preparato, perché alla fine sono sulla scena già da tempo, per cui arrivano lì, magari sono relativamente giovani, ma hanno un'esperienza da fare invidia anche ai più blasonati e quelli che hanno magari anni e anni e anni di carriera.